Un buongiorno a Livia Amabilino, siamo con Sergio Fanti, Rachele Copparoni, buongiorno a tutti e a tutte. Buongiorno. Anche in coro è venuto questo buongiorno. All'unisono, perfetti. Siamo qua per presentare la nuova stagione che riparte 2022-2023 del Teatro Duse. Come si inizia questa nuova parte di stagione? Beh, innanzitutto con grandissimo entusiasmo, sono oltre 60 titoli, quindi è una stagione di prosa ricchissima che adesso in questa presentazione si arricchisce anche degli altri percorsi, che quindi sono il Duse Oltre, che presenta una serie di spettacoli che sono particolari, sono di drammaturgia contemporanea, ma hanno qualche particolare ognuno diverso. Poi la danza, naturalmente, poi storie di donne, questo invece è una sezione particolare che abbiamo appena finito di programmare, cioè di fissare per questa, e che ha veramente sia degli appuntamenti comici, ma sempre riguardanti una visione sulla donna originale e contemporanea, e poi naturalmente i grandissimi concerti che, non so, vanno da Harlem Gospel Choir, da Tommy Emmanuel, da Fabio Concato, da Simone Cristicchi, insomma ce ne sono tantissime. E poi le collaborazioni con i giovani, con la Berlin School, con Fantateatro, che proseguono ormai da anni e che quindi arricchiscono la nostra programmazione. Se volete qualche nome, ecco, certo. Carlo Lucarelli ha un appuntamento molto curioso con Nicky Vendola, che fa una presentazione molto particolare, molto poetica, ma anche per esempio Natalino Balasso, che invece è un grande del Teatro del Veneto, che presenta uno spettacolo cult interattivo con gli spettatori, presenta 250 lemmi e insieme agli spettatori che gli scelgono li commenta e li porta avanti. Quindi sono anche degli spettacoli che prevedono un coinvolgimento del pubblico. Tra l'altro vedevo anche Marco Goldin con Gli ultimi giorni di Van Gogh. Quindi sarà un teatro di divulgazione in questo caso? Ma in questo caso io direi di grande incantamento, perché ci sono delle scene alte, delle proiezioni video che presentano le sue opere alte 3 metri, quindi oltre che uno storico dell'arte, ha scritto un libro molto importante, vedremo le sue opere e la narrazione anche della sua vita, perché una biografia interessantissima e appassionante, l'ultima parte della sua vita, quindi viene narrata e poi c'è questa visione meravigliosa dei quadri. Bene, poi sai, i concerti, Tony Hadley addirittura, locali. Tony Hadley, devo dire, sta diventando un cult in Italia, sì. Fa sold out dappertutto, veramente siamo fierissimi di poterlo avere, è una grandissima presenza. Poi che ci onora. Abbiamo il nostro locale Federico Aicardi e il giorno dopo Angelo Branduardi, che ha fatto questo tour, Il cammino dell'anima, è molto interessante, ho sentito l'album, tutto un percorso suo musicale, spirituale, che è cominciato già da parecchio tempo. Branduardi è un artista straordinario da questo punto di vista, un'intimità, una profondità, ma in generale il pop italiano in questo momento sta andando fortissimo e il Duse si sta in qualche modo delineando come anche un luogo dove la musica pop italiana, e non solo, ma anche internazionale, può essere vissuta da vicino con una grande, come dire, partecipazione del pubblico. Questi sono i tour teatrali, no? Che hanno naturalmente non la maestosità di quelli fatti nello stadio, ma l'intimità e l'emozione di appuntamenti presentati in teatro. Sì, non a caso ho visto anche che Franco Battiato è comunque presente sia come colonna sonora, mi sembra proprio di Goldin, sia nello spettacolo di Simone Cristicchi, che con la cantautrice Amara farà uno spettacolo che si chiama Torneremo Ancora, concerto mistico per Battiato. Ecco, torna anche qui, come dicevamo prima con Branduardi, anche lui è un Battiato, è un poeta fondamentalmente, quindi se uno va anche a analizzare i testi delle canzoni, oltre alla musica naturalmente meravigliosa delle sue canzoni, si sta riscoprendo sempre più questo aspetto, diciamo, anche spirituale, come dicevi tu prima, e quindi sono veramente degli appuntamenti particolari. No, è bello che Battiato viva. Vabbè, Battiato vivrà sempre. Vivrà nei nostri ricordi. Continua. Cioè. Poi anche Luce Giovane è una cosa molto bella, perché Fantateatro è un'iniziativa veramente Fantateatro, ma è una collaborazione che dura da anni, come anche quella con l'Orchestra Senza Spine, che noi abbiamo coltivato e che poi è stata riconosciuta dal Ministero e che continua a fare un grande percorso di successo, e soprattutto un'orchestra di giovani per i giovani, quindi musica classica, musicisti che coinvolgono la platea giovane, che questo è quello che noi vediamo anche degli abbonati nuovi venire in questa nuova campagna abbonamenti che stiamo facendo, e quindi questo è evidentemente un rinnovamento del pubblico. Ricordo che alcuni spettacoli sono già in vendita, adesso a scaglionati di una prima verranno in vendita gli abbonamenti liberi, poi tutti i biglietti verranno messi in vendita di tutta la stagione. Perfetto, in bocca al lupo per questa grande stagione teatrale. Viva il lupo!